Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Allora, noi in barba chi dice che le ragazze che vengono a Miss Italia o comunque i concorsi di bellezza sono mute, noi da anni che le facciamo parlare, che le facciamo autopresentare, come faranno anche questa sera, autopresentazione di Pamela. È sempre la stessa emozione salire su questo palco e ringrazio questo paese, molto bello. Progetti per il futuro? Ma laurearmi per diventare educatrice professionale. Hobby? Volontariato con persone diversamente abili e che pratico da 7 anni. Buonasera a tutti, sono Martina, ho 20 anni e studio scienze della formazione primaria. Scusate, non riesco a trattenere il singulto tra riso e effetto emetico dell'aspirante Miss Italia che dice che l'aspirazione della sua vita è occuparsi di persone diversamente abili. Come farà mai con quelle unghie lunghe laccate? Come farà mai con quelle extension? Come farà mai con quelle manine curate? Come farà mai con quei tacchi trampolosi a occuparsi di una persona che sta su una sedia a rotelle? Ma non voglio assolutamente porre il problema, non voglio fare questioni. No, questa mattina è un'altra la domanda che voglio fare. Cosa c'è di male a essere nude e mute? Ma perché una persona non può essere nuda e muta, non può avere dignità di esistenza, orgoglio di se stessa per il fatto che è nuda e muta, cioè è apprezzata per il nitore apollino della sua bellezza e non è costretta a dover esprimere dei profondi sensi dell'intelletto perché già è bella, già è esteticamente qualcosa di gradevole per l'umanità, già fa un regalo all'umanità per il fatto di essere bella. E invece questo slogan, né nude né mute, lo hanno scritto sulle loro nive magliette le 186 prefinaliste di Miss Italia. Le prefinaliste sono ancora una sorta di girone di purgatorio, non sono le finaliste, sono quelle che nelle fiere di paese, nelle feste del proloco, nelle tombole di parrocchia hanno fatto le prime selezioni, sono le caruccine di paese che oggi sono lì aspiranti, tutte contente, tutte orgogliose del fatto che Miss Italia comunque andrà in televisione, nonostante che il direttore del TG della Setta abbia detto che non era in linea con la condotta editoriale della sua rete, alla fine la Sette manderà una seratina di Miss Italia, quindi ancora una volta l'hanno sfangata, l'ammortizzatore sociale per queste ragazze che hanno bisogno di lavorare anche loro e quindi fanno le miss, è stato assicurato. Io non voglio entrare nella polemica, sì Miss Italia, no Miss Italia, perché oggi naturalmente la polemica assume un segno politico. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, è la Ayatollah Boldrini, come titola oggi il giornale, sul pezzo di Cristiano Gatti, che è anche divertente. Perché? Perché ha detto che Miss Italia era una sorta di oltraggio alla dignità femminile, che soltanto il 2% delle donne in TV parla e esprime pareri, il resto si mostra e mostra il proprio corpo. Quindi le Miss Italia, una volta che hanno ottenuto la loro sicurezza, che ce la faranno anche quest'anno andare in televisione a sfilare, a dire che loro sono preoccupate per la pace nel mondo, per i bambini poveri che muoiono di fame e per i poveri sofferenti dell'umanità, e quindi sono tutte contente, hanno messo questa maglietta per dare un senso politico e far vedere che loro sono donne pensanti, sono donne socialmente impegnate, sono donne che vivono la loro contemporaneità, hanno scritto né nude né mute. Però la domanda che faccio questa mattina agli ascoltatori, soprattutto alle ascoltatrici, ma perché deve esistere una sorta di distinzione gerarchica tra i valori per cui l'essere belle è di rango inferiore rispetto alle essere loquaci, intelligenti, culturalmente coltivate? Voi direte, come mi ha risposto poco fa una collega a cui l'ho chiesto per avere un test immediato, eh sì, perché la bellezza ce l'hai dalla nascita, non devi fare nessuna fatica, invece la cultura, la capacità di parlare, di articolare sulla realtà è qualcosa che fai con la tua fatica. Ma perché questo culto della fatica? Perché se uno nasce fortunato deve anche faticare per ottenere il suo posto nella realtà. Perché io, mettete, che riesco a mettere due parole in fila, voi direte, ah sai quanto ha studiato questo, che fine intellettuale, ma che io riesco a parlare perché qualcun altro è bravo a giocare a calcio, qualcun altro scopre improvvisamente che ha una visione fantastica dei numeri, quindi diventa un grande matematico. Io ho scoperto a un certo punto che posso parlare pensando ad altre cose, giocando a pallacanestro, mangiando rigatoni alla matriciana, e quindi parlo, e quindi ho fatto di questo un mestiere. essere, non ho nessun merito, ma io non è che debba sentirmi anche obbligato a essere bello, sono orrendamente schifoso dal punto di vista fisico, lievemente appetibile soltanto per necrofile e persone con gravi problemi edipici, però naturalmente riesco a parlare, quindi sono considerato un intellettuale. Se fossi un sirenetto, fossi un velino, fossi un tronista, sarei detestabile. 800240024, cosa c'è di male essere nude e mute? Buonasera a tutti, io sono Eleonora, ho 20 anni e nella vita studio nella facoltà di economia aziendale. Nel mio tempo libero mi piace tantissimo cucinare e provare ricette sempre nuove. Io sono Eleonora, ho 21 anni, sono una studentessa di lingue e letterature straniere e vi auguro buona serata. È singolare che il luogo in cui l'ispiratore di questa domanda che faccio io sia quello di Miss Italia. È altrettanto singolare delle ragazze rivendicano il diritto di essere perfette interpreti della contemporaneità che è data loro di vivere, cercando di incarnare un modello è quanto di più vecchio, di più vetusto, di più ammuffito. Miss Italia è qualcosa che esiste dal 39, pensate, nasce sotto il fascismo Miss Italia, pensate che modernità, era un concorsino per reclamizzare un dentifricio, qualcosa del genere. Poi è continuato, fa parte della storia del nostro paese, a Miss Italia non si rinuncia, è una sorta di anno liturgico televisivo. Miss Italia ha avuto un rango di festa comandata, quindi tutti gli anni con Frizz, con i vari presentatori, con la mummia Mirigliani, con la figlia che sembra la regina Koala dei film della mia gioventù, che entrava la misteriosa regina Loana, era un vecchio fumetto di Alex Raymond, che entrava dentro una fiamma e tornava giovanissima. Cioè la figlia di Mirigliani in mezzo alle Miss Italia sembra Miss tra le Miss, come farà lei? Meraviglioso, rende giovani, però è qualcosa di antico, è qualcosa di ammuffito, è qualcosa di lontano. Immaginate quanto poco ci sia senso della contemporaneità nel fare quello che ha fatto Sofia Loren, Lucia Bosè, che hanno fatto tutta questa categoria di grandi dive, poi sono diventate grandi dive, ma a un certo punto in poi Miss Italia cosa ha prodotto? Ha prodotto tanta plin plin, ha prodotto dei bei volti divertenti che per un anno hanno una sorta di passaggio veloce, fugace nell'immaginario della pubblicità e poi scompaiono, vengono sovrapposte. Ma perché? Perché non esiste più un principio di distinzione, sono tutte uguali le Miss Italia, hanno annullato ogni differenza territoriale, non esiste più una definizione del loro luogo d'origine delle Miss Italia, perché sono tutte identiche, fatte con lo stampino. Quindi qual è la gerarchia delle qualità secondo voi? E questa sorta di pretestosità di abbassare il terrifico senso che ispira la bellezza fisica femminile, la paura della bellezza fisica, con a controbilanciarlo con una sorta di possibilità di avere anche delle qualità intellettuali, è proprio necessario, perché una donna deve anche saper parlare, una donna bella non può essere soltanto bella, avere lo stesso dignità di dire io sono una bella donna. Milva, buongiorno. Ciao, buongiorno. Lei è d'accordo né nuda né muta? Ma sì, nel senso... Come se... si sente più a suo agio, parlando o stando nuda e zitta? Allora, se mi sento a mio agio posso stare benissimo nuda, ecco. Il bello è essere liberi, e se voglio stare zitta, ma perché lo desidero, posso stare zitta. Il discorso è che queste ragazze secondo me hanno cervello, lo dimostra il fatto che tante fanno l'università, e anche se non... Oddio, non è una condizione sufficiente, infatti, a dimostrare di aver cervello. No, infatti. E anche, infatti stavo dicendo, anche se tante non vanno in università, comunque sono libere di esprimersi in qualsiasi modo loro vogliano. Trovo molto più oltraggioso, ora Boldrini dovrebbe riflettere su questo, le immagini che ho visto di politici che si picchiano in Parlamento, di atti veramente scandalosi. Però lei in questo momento, sì, però in questo momento sta mischiando le mele con le pere, noi parliamo di una cosa molto precisa, cioè vogliamo dire, figuraci, è più orribile la fame nel mondo che parlare le Miss Italia che non parlo. Però entriamo, rimaniamo nell'ambito della gerarchia dei valori. Perché secondo lei la bellezza è qualcosa deve essere comunque bilanciato anche con la loquacità, con la cultura, con l'intelligenza? La bellezza pura non ha dignità di esistere. Miss Italia è un corso delle Miss più belle. Essere belle significa farsi vedere, e naturalmente le donne mostrano la loro bellezza e vengono giudicate da uomini, perché il principio affascinatorio di una donna è generalmente e statisticamente maggiore verso gli uomini, quindi si fanno belle per piacere degli uomini, e quindi non dico che sia in assoluto la cosa più fantastica del mondo, ma questo è inutile essere ipocriti. Trovo più ipocrita la Miss Italia dell'ultima versione Rai, con i braghettoni che aveva messo la madre badessa presidentessa Tarantola, se proprio vuole parlare di ipocrisia. Devono essere spogliate, non farsi adesso, siete belle, fateci vedere quanto siete belle, non mi interessa sapere che siete anche intelligenti, allora vado alla Sorbona o vado alla Normale di Pisa a cercare donne intelligenti, non faccio un concorso. Loro puntano tutto il loro successo sulla passerella, altre donne le puntano invece sul cervello. Vittorio. Pronto? Sì. Vittorio. Pronto? Sì. Ah sì, sì, no niente, volevo dire che sono d'accordo con lei, effettivamente che si può essere tranquillamente nude, mute, con piena dignità. Anche se molti, appunto, particolarmente intellettuali a sinistra, considerano la bellezza quasi una vergogna, anche se poi nella realtà dei fatti chi è bello viene facilitato in svariate maniere. Ma come diceva San Bernardino, come dicevano tutti i grandi predicatori della Chiesa, che la donna in realtà è un verminaio, è il luogo della tentazione. Lo dice un laico di sinistra oggi questo? Ecco, sicuramente. Però non capisco da parte sua proprio mia. Perché diciamo irrideva un po' la possibilità che una ragazza che vada a fare il non è il l'orrido, concorso, non ho capito cosa dice, perché è una chiara paraculata, dovrei dire. Ma sarà una paraculata, ma non vuol dire che tutte siano così. Capisco che è una paraculata, guardi, questo dice, sono da 7 anni che lo faccio, ma ce ne sono tante che sono belle, che amano vestirsi con la minigonna. Guardi che ne conosco decine, quelle che si occupano di un figlio sono tutte bellissime, maestre di yoga, di danza, e vanno a ballare il tango dopo sono occupate di mio figlio, quindi lo so. Giudico una paraculata dire sulla passerella Miss Italia mi occupo di disabili. Questo è il mio punto di vista, se non è concordante col suo, mi dispiace, ma è così. Per carità, era solo, lo facevo presente. No, conosco il problema, si figuri. Bene, andiamo avanti. No, andiamo avanti. Mandiamo le informazioni del traffico in questo momento e riprendiamo tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Mi chiamo Adele, ho 20 anni, studio medicina e nel tempo libero mi piace andare a fare gym, giocare a racchettoni, soprattutto in questo periodo. Prego. Concorrente numero 8. Sono Roberta, mi sono appena diplomata e pratico la ginnastica artistica da 10 anni. Fabrizio Intonti, che è un filosofo, è la mia coscienza, la mia buona coscienza, che in realtà mi ricordo ogni momento quelle che sono le categorie essenziali dell'esistere, mi dice, da un punto di vista strettamente antropologico, l'intelligenza farà progredire una comunità, la bellezza la rende felice, la bellezza concilia con la durezza della vita quotidiana, la bellezza ispira l'arte, la bellezza ispira la poesia, la bellezza dà un senso di leggerezza quando, ahimè, la comunità e l'umanità che progredisce è pesantissima da sopportare. Stiamo questa mattina celebrando l'orgoglio e il diritto a esistere delle nude e delle mute. Tutte le categorie hanno dignità di essere protette, dignità di esprimere l'orgoglio dell'appartenenza al loro genere, alla loro categoria, alla loro maniera di essere. Ma perché le nude e le mute non hanno dignità di esistenza? Perché le nude e le mute sono considerate delle reiette? Perché sono nello scalino più basso, più infimo della società di genere femminile. Oriana, buongiorno. Buongiorno. Allora, io... Lei come si sente meglio, parlante vestita o nuda e muta? Allora, io personalmente vestita e parlante. Parlando, ma nei casi quando c'è qualcosa da discutere con qualcuno. Se no, sta zitta. Posso stare benissimo, esatto, anche muta e osservarmi, mi piace più comunque osservare e ascoltare gli altri. Cosa rispetto alle ragazze che prendono le distanze dall'essere nude e mute, come fosse dire maledette dalla società, reiette, colpevoli, come la pensa? Allora, io sinceramente appoggio e approvo anche la scelta di quelle che fanno benissimo sia all'università e nello stesso tempo possono andare anche a partecipare in Miss Italia. E il fatto, ho sentito bene anche l'intervento della Boldrini l'altro giorno, e il fatto che loro non parlano, come ha detto, è un programma di bellezza, quindi la parola non li darebbero neanche tanto conto, perché comunque si va lì per valutare la bellezza fisica e non È inutile che giriamo intorno, sono lì per valutare il giro vita, il giro culo, il giro coscia, il giro fianco, il giro tette, gli occhi, la bocca, non è che si va a valutare quanto sono brave a spiegarci la formula della particella di Dio, capisce? Mi sembra ipocrita anche questo, l'ho detto, ci sono mille rassegne, possono fare un premio Margherita Hack dove tutte le persone che vogliono esprimere il loro livello di elaborazione della realtà lo possono fare. Andrea. Sì, pronto. Eccomi. Buongiorno, buongiorno. Beh, mi piace molto la sua trasmissione. Io volevo dire una cosa così molto veloce. Se le donne non fossero state nude e mute, alcuni quadri di un certo periodo dell'arte non esisterebbero. Lei dice, noi oggi rimaniamo colpiti da sindrome di Stendhal, di Fonse, delle opere d'arte in cui vediamo rappresentata la perfezione della classicità, ma lì dietro c'era una donna che è stata nuda e muta, ha avuto la funzione di matrice ispiratrice dello scalpello dell'artista, e se oggi guardiamo una Venere, guardiamo una rappresentazione, diciamo, perché una donna ha saputo essere nuda e muta al punto di lasciarci un'idea. Ma trasmette emozioni pur essendo nuda e muta, è ferma. Ecco, lo vede però che esiste oggi una sorta di terrificante ritorno al bigottismo. L'ha detto, trasmette emozioni. Si rende conto di tutto il discorso, al di là del portato politico su cui tutti stanno cercando di portarlo, in realtà è una grande censura alle emozioni. Viene giudicato colpevole ciò che suscita emozione. Se la donna nuda e muta suscita emozione, è colpevole, crea disordine, esattamente come dicevano i predicatori ai tempi di San Bernardino: considerate la donna un verminaio, perché dentro è una cosa schifosa, è una macchina orrenda, serve solo a indurre l'uomo al peccato. Ma siamo arrivati a questo? Temo di sì, se sul tono delle tre frasi di prima l'intelligenza si giudica sul fatto che una persona vada o non vada all'università, temo che ci sia stata una regressione, certo, nei confronti delle emozioni e nel metro di giudizio. Grazie, Ferdinando, buongiorno. Buondì, niente, io volevo dire semplicemente che non esiste la donna di natura, l'uomo natura, esiste l'uomo sociale e la donna sociale. Allora col mutare della società cambia quella che è l'idea di uomo e di donna. Ora la stessa Sofia Loren oggi penso che sarebbe un altro tipo di bellezza che non è comparabile. Quindi d'accordo con me che diciamo un adeguarsi modello arcaico è vintage Miss Italia. Queste ragazze seguono un modello vintage, se piace loro essere rappresentate come Instagram rappresenta nei profili sì. Facebook le loro foto virate anni 50, beh, se fanno Miss Italia sono esattamente vintage. Esattamente, però oggi la donna sociale è una donna sociale che non è quella, a parte uno così metterla come vintage, per il resto la donna sociale vuole che sì, che deve essere simpatica, attraente. La donna sociale è un'interlocutrice che sia piacere avere accanto, e uno si dimentica come sia fatta, se sia nuda, se sia vestita, perché ci affascina col fatto di essere donna, io la penso così. Giacomo. Eccoci qua, salve. Sono felicissimo di intervenire per darle ragione completamente. No, allora devo segarle. Ma mi ascolti dal punto di vista di ritenermi obbrobioso spesso per il fatto di avere due lauree, non una, e per me questo non è certo un vantaggio. Vabbè, ha studiato, ha investito sul suo futuro, giusto? Ma neanche tanto, in qualche maniera. Io mi voglio fare l'elogio della cialtronaggine. Io voglio, in qualche maniera sì, perché vorrei dire che quando guardo Miss Italia, e ho piacere spesso di guardarlo, lo guardo appunto non minimamente focalizzandomi sull'aspetto interiore o culturale delle ragazze, perché non credo sia quello l'obiettivo appunto magari di questo concorso, anzi apprezzo proprio quando una ragazza è bella per una dote di natura che è completamente equiparabile alla mia di cultura, proprio perché come lei diceva... Sì, ma diciamo la verità, Miss Italia è l'apoteosi del figalegnismo, sì sono belle, carine, ma è tutt'altro che un simbolo di turpitudine limacciosa, non suscitano erotismo, sono belle, carine, quindi facciano quello, non danno nemmeno tanto fastidio, non capisco nemmeno perché vengano considerate anche come simbolo di abiezione, perché le hanno messo loro i mutandoni nell'ultima versione. Assolutamente sì, anzi con questa protesta non fanno altro che dare ragione al bigottismo delle persone. E che certo, vince la badessa tarantola che ha detto, avete visto, dovete stare qui e mettervi il velo e i braghettoni e stare zitte, mute, e tanto avevate comunque possibilità di esistere. Vi siete ribellate e adesso non siete né carne né pesce. Vogliono castrarci in questa ennesima maniera come se non bastassero le altre problematiche alle quali dobbiamo far fronte ogni giorno. Aurelio, buongiorno. Eccomi. Sì. Le donne sono scomparse, improvvisamente sono emersi i maschiacci schifosi. Aurelio. Allora, io volevo dire questo, Nicoletti, in appoggio a quel che lei stava dicendo. Sì, ma se mi appoggiano tutti questa mattina mi comincio a preoccupare. Qualcuno esprima pareri di dissenso rispetto a quello che dico. Chi chiama la pensa come lei. Allora, che molti non riflettono sul fatto che una bella ragazza è, prima di ogni altra cosa, una meraviglia della natura, come un tramonto, come un cielo stellato, come un ghepardo allo zoo. Cioè, c'è questa nostra cultura cattolica un po' sessuale. Come un ghepardo che corre nella savana, perché allo zoo, poveraccio. Che vuole invece subito vedere nel sesso qualcosa di negativo, di brutto, di cosa da esprimere, e quindi condanna un po' la... Quindi è d'accordo anche lei, mi scusi Aurelio, che dietro questa polemica su Miss Italia, nude, mute, intelligenti, liberate, ci sia un profondo, strisciante e fastidiosissimo bigottismo generale? Sì, sì, è assolutamente così. Ma voglio aggiungere questo però. C'è una cosa di giusto in quel che dice la Boldrini Coso, cioè questa discriminazione tra donne e uomini, cioè la donna, la bella ragazza viene fatta vedere, viene invitata, no? Porta a porta e messa lì in costume, mentre tutti stanno in giacca e cravatta, lei sta invece mezzo spogliata, e invece per gli uomini questo non c'è. Allora io penso che per correggere questa discriminazione nei confronti delle donne bisognerebbe invitare le trasmissioni televisive. Però posso dire una cosa, no Aurelio, devo concludere perché stiamo chiudendo. Ci ha provato Ricci a Striscia Notizia, ha messo gli uomini nudi, non sono piaciuti a nessuno, fanno schifo. Le donne sono più elaborate, più intelligenti, profonde loro, se ne fregano del muscolo. L'attizzamento nasce da qualcosa che è profondamente, intimamente maschile e non si rappresenta sulla passerella. Ci sentiamo domani.